questa notte in cui le stelle ritardano a brillare, decidiamo di aspettarle a modo nostro in compagnia. Non vogliamo che la luna stia da sola a festeggiare. Forza, alziamo il culo, andiamocene via. Stasera pago il primo giro per brindare alla musica e a questa notte magica. Dai Simo, versaci davvero un bel bicchiere di quel vino rosso che hai tenuto apposta per noi. Ehi ho, ehi ho, ehi ho. Questa notte in cui le stelle ritardano a brillare. Questa notte in cui le stelle sono scese dentro al cuore. Riscaldiamo l'atmosfera con due note, una canzone. Forza, fuori gli strumenti, il ritmo ed il colore, e le pinte già si svuotano al bancone. Ed hanno il tempo di colpi nel calcetto, chi perde paga la rivincita. E mentre Marco cerca un socio per gli scacchi, gli altri ballano e cantano sui tavoli. Ehi ho, ehi ho, ehi ho. Questa notte in cui le stelle son scese dentro al cuore. Sperando che ritardi ad arrivare un altro sole, tanto vale rimanere, il domani è per dormire. E paghiamo un altro giro e si attacca chi non vuole, tanto il vino prima o poi dovrà finire. E Johnny e c'è mutande e corre per il prato fino a dove si può arrivare. E intanto a Oriente spunta il sole che ci scopre ancora svegli a cantare.